Le notizie in 60 minuti di Simone Spezia. Attacco ad una chiesa a Rouen, in Normandia, sgozzato il prete, c'è una persona tra la vita e la morte, gli assalitori avrebbero gridato Daesh, secondo la stampa francese. Mediaset Bolloré fa dietro front, vogliamo solo il 20% di premium e il titolo crolla in borsa, giù del 10%, male oggi i mercati, Milano perde l'1%. Stati Uniti alla convention democratica, il partito prova a ricompattarsi contro Trump, Bernie Sanders dice faremo il possibile per far eleggere Hillary alla Casa Bianca. Sciocchi in Campania dopo la violenza sessuale di gruppo su una minorenne, il terzo caso in poche settimane. Ancora polemica per gli stipendi Rai, Alfano dice inaccettabile che il direttore generale guadagni 6 volte il premier. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp e effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere. In apertura dunque ancora le cronache da quello che sembra essere terrorismo a Rouen in Normandia. Valentina Furlanetto per gli aggiornamenti. Valentina. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Sembra infatti terrorismo, indaga la procura antiterrorismo per questo assalto a una chiesa durante la messa delle 9 a Saint-Étienne de Rouvray, vicino a Rouen in Normandia. Ci sono 3 vittime, ha detto poco fa il vescovo di Rouen, Dominique Lebrun, in una nota diffusa da Cracovia, dove domani si tiene la giornata mondiale della gioventù. Le vittime sono padre Jacques Hamel, di 84 anni, e gli autori di questo assalto, che sono stati neutralizzati, uccisi dalla polizia. Ma ci sarebbero anche 3 feriti, di cui uno molto grave. Il premier francese Manuel Valls, in un messaggio su Twitter, esprime orrore di fronte al barbaro attacco. La Francia intera, scrive, tutti i cattolici sono stati colpiti, faremo blocco. L'assalto appunto è avvenuto durante le 9, durante la messa delle 9, secondo il sito Le Point, al momento dell'irruzione nella chiesa i 2 assalitori avrebbero gridato Daesh, l'acronimo arabo per indicare lo Stato Islamico. Le indagini, come dicevamo, sono state affidate alla procura antiterrorismo. L'assalto avviene a 12 giorni dalla strage di Nizza. Per ora è tutto. E ti ringrazio, grazie a Valentina Furlanetto per questi aggiornamenti. Ovviamente altre notizie, quando le avremo nel corso della puntata di Effetto Giorno, ve le daremo come sempre in questi casi. Si è registrato anche un caso di violenza, ma di tutt'altro tipo, in Giappone. Penso che sia meglio che i disabili spariscano. Con questa orribile motivazione, un ragazzo giapponese di 26 anni, Satoshi Uematsu, ha spiegato la follia criminale che l'ha portato a uccidere almeno 19 persone e ferirne altre 29 con una serie di coltelli. Nella notte è penetrato in una struttura per disabili di Sagamihara, una 50 di chilometri a ovest di Tokyo, e, dopo aver compiuto la strage, si è presentato tranquillamente alla polizia. Il ragazzo ha detto di aver lavorato fino allo scorso febbraio nel centro, che è stato istituito dalla prefettura di Kanagawa e ospita circa 150 persone con disturbi mentali. Le vittime, uomini e donne, hanno un'età dai 18 ai 70 anni, 20 di feriti versa in gravi condizioni. In Giappone non di rado succedono episodi di follia criminale, puniti a volte con la morte. Seppure si è diffuso un piccolo sospiro di sollievo all'idea che non si sia trattato di terrorismo, lo shock è grande per quello che appare come il peggior massacro del dopoguerra. Per di più, su persone fragili, indifese e con modalità efferate. Altro particolare agghiacciante, a gennaio il ragazzo aveva scritto alle autorità, esprimendo il desiderio che le persone disabili venissero sottoposte a eutanasia. Stefano Carrer, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tokyo. All'indomani del referendum per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, vi avevamo raccontato del moltiplicarsi di reati a sfondo razzista. Ebbene, oggi sono stati diffusi i dati. Secondo appunto i dati diffusi dalle forze dell'ordine, sono stati denunciati alla polizia oltre 6.000 casi di cosiddetti crimini d'odio, rivolti soprattutto contro gli immigrati europei che vivono nel Regno, con un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo del 2015. Il record è stato raggiunto il 25 di giugno, il giorno dopo il risultato del voto popolare che ha sancito la vittoria euroscettica, con ben 289 casi. Andiamo negli Stati Uniti all'avvio della convention democratica. Non poteva andare meglio la prima notte della convention democratica a Filadelfia. Non c'è stata soltanto una marcia verso l'unità dopo che nella mattinata sembravano invece esserci delle forti polemiche, ma c'è stata anche un'atmosfera di grande entusiasmo, non solo per la qualità degli interventi e dei personaggi politici che sicuramente non hanno trovato un contrappunto nella prima serata del Partito Repubblicano. Vi cito per esempio Elizabeth Warren, senatore del Massachusetts, Cory Booker, senatore del New Jersey, ma soprattutto le grandi star della serata, Michelle Obama e Bernie Sanders, il candidato sconfitto da Hillary Clinton. Non sarebbe stata completa la serata se non ci fosse stato anche un intervento musicale, anche quello per la riunificazione, di Paul Simon. Mario Platero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, a Filadelfia, la Convention Democratica. Veniamo all'Italia e restiamo però sulla politica, dove resta alta la polemica sui compensi della RAI. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì Simone, questa volta ad intervenire il ministro degli interni Angelino Alfano. In una grande democrazia come l'Italia non è possibile che il direttore generale della RAI guadagni 6 volte più del premier. Se questa dirigenza continua così, sarà quella che a furor di popolo farà privatizzare la RAI. Il riferimento è ad Antonio Campo Dall'Orto, che guadagna 650.000 euro l'anno. Ieri il consiglio di amministrazione di Viale Mazzini ha discusso sulla trasparenza dopo la pubblicazione online degli stipendi sopra i 200 e 300 mila euro di dirigenti e giornalisti. Sono 94 i dipendenti RAI che superano il tetto altrove imposto ai manager pubblici di 240 mila euro. In un documento finale il Consiglio dice che le problematicità saranno risolte in modo adeguato. Ad intervenire oggi su Repubblica anche Anna La Rosa, che spiega: il tetto mi è stato applicato con vigore, ogni mese restituisco 1.000 euro netti, quello che ho guadagnato in più in un anno, e sono parcheggiata contro la mia volontà. A te Simone. E grazie Elisabetta Fiorito. Altra questione politica, questa volta più strettamente romana, è quella che riguarda la situazione dei rifiuti. Sono ormai ad un passo dalle dimissioni a Roma i vertici dell'AMA, la municipalizzata che si occupa della raccolta dei rifiuti. Dopo la visita a sorpresa dell'assessore all'ambiente Paola Muraro, un vero e proprio blitz trasmesso in diretta su Facebook, il presidente Daniele Fortini ieri ha chiesto che l'assemblea dei soci accetti entro il 4 agosto le sue dimissioni, presentate e poi congelate dopo le amministrative, e nomini nuovi dirigenti. Da giorni è in atto un vero e proprio braccio di ferro nel quale la giunta Raggi, per risolvere l'emergenza di questi giorni, spinge perché venga utilizzato anche uno degli impianti di Manlio Cerroni, per 40 anni gestore unico del business dei rifiuti a Roma. Farlo senza una gara è contro la legge, sostiene però Fortini. La regione Lazio, tirata in ballo, parla di scorretto scaricabarile. I sindacati dicono invece basta a spot e processi mediatici, mentre i romani nel frattempo sono ancora costretti a fare i conti con cassonetti stracolmi e mondezze in strada anche in periodo di ferie estive. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E su questo torneremo più avanti nel nostro consueto giro per l'Italia. Parleremo col presidente di uno dei municipi più invasi dai rifiuti, nella fattispecie il municipio 14 di Roma. Restiamo nella capitale per un'importante inchiesta su usura e riciclaggio. Esponenti della banda della Magliana, direttori di banca e gestori di bar. Un gruppo organizzato di notevole spessore, con forte presa sulle vittime dei prestiti usurari. Questo si legge in una nota della DIA di Roma, che questa mattina ha eseguito 16 provvedimenti di custodia cautelare e agli arresti domiciliari nei confronti di una presunta organizzazione criminale, dedita all'usura e al riciclaggio. Applicavano tassi di interesse fra il 70 e il 150% sulle somme prestate, e chi non pagava veniva minacciato e intimidito. Tra le vittime, oltre a commercianti e privati cittadini, politici e amministratori locali. Le indagini, condotte anche con l'utilizzo di intercettazioni telefoniche ambientali, hanno fatto emergere come il gruppo criminale fosse altamente organizzato. Due direttori di banca avrebbero agevolato l'emissione di mutui senza garanzia nei confronti delle vittime dell'usura, per consentire all'organizzazione di recuperare i prestiti illeciti. Ai gestori di bar il compito di riciclare i proventi dell'attività. A capo dell'organizzazione criminale ci sarebbe Benedetto Giovanni Stranieri, ex maresciallo dei Carabinieri e oggi avvocato del boss di 'Ndrangheta Nicolino Aracri. Stranieri era già stato arrestato nel 2015 per concorso esterno in associazione mafiosa. Matteo Riberto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo al caso, il nuovo caso di violenza su una minorenne commesso da una banda di coetanei. 16 anni, basso, mingherlino, alle spalle però una famiglia che fa paura e che fa di lui il leader del branco. Un baby boss capace di minacciare anche un adulto, l'autore di un post su un blog locale che per primo qualche settimana fa scrive di quanto sta accadendo a Piemonte, paesino dei Monti Lattari nella penisola sorrentina. Scrive di arresti in arrivo per una storia simile a quella di fine giugno di San Valentino Torio nel Salernitano, dove una 16 era stata violentata da 5 coetanei in un garage. Gli arresti a Piemonte sono arrivati ieri dopo la coraggiosa denuncia della vittima che ha 15 anni. Filmata con un cellulare durante un rapporto sessuale con il fidanzato, il capobranco, e poi costretta a rapporti con gli amici sotto la minaccia della pubblicazione del filmato sui social. I suoi stupratori sono 12, tutti minorenni, hanno tra i 14 e i 17 anni e su di loro pende ora l'accusa di violenza sessuale di gruppo e minacce. Sono stati trasferiti in comunità di recupero, tranne uno affidato alla famiglia, così recita la formula, perché non ha ancora compiuto 14 anni. Le indagini però non sono finite, gli inquirenti stanno verificando eventuali altre vittime del branco. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A proposito della Francia, qualche ascoltatore che evidentemente si è sintonizzato solo adesso ci dice: non ne avete parlato in apertura, ma siamo matti, è stata esattamente la nostra apertura di trasmissione, continueremo ad aggiornarvi nel corso della trasmissione, lo ricordiamo perché si fosse messo in ascolto solamente adesso, c'è stato un attacco all'interno di una chiesa a Rouen durante la messa del mattino e siamo in Normandia, o meglio nei dintorni di Rouen, e un prete di 84 anni, da quel che si è appreso e da quel che abbiamo saputo anche dal suo vescovo, è stato sgozzato, c'è stato il tentativo a quanto pare di sgozzamento anche di un'altra persona, ci sarebbe una persona tra la vita e la morte, altri due feriti, e gli attentatori sono stati uccisi. Ovviamente vi aggiorneremo nel corso della trasmissione, abbiamo le notizie frammentarie che ci sono sempre in questi casi, nel momento nel quale ci arrivano ovviamente ve le daremo. Ma restiamo all'estero e andiamo in Turchia, dove proseguono arresti e depurazioni. Marco Barbonaglia da Istanbul, Marco, buongiorno. Buongiorno, è stata arrestata oggi vicino a Bodrum, sulla costa Egea, Nazlı Elcak, giornalista 72enne ed ex parlamentare, famosa in Turchia anche per le battaglie condotte in passato per permettere alle donne che lo volevano di indossare il turban, proibito allora in molte istituzioni pubbliche. Elcak fa parte, lo ricordiamo, dei 42 giornalisti per i quali è stato emesso ieri un mandato d'arresto perché sospettati di essere collegati alla rete di Fethullah Gülen, organizzazione illegale e considerata un gruppo terroristico in Turchia, nonché ritenuta da Ankara responsabile del tentato golpe dello scorso 15 luglio. Elcak era stata cercata ieri a Istanbul, è stata trovata oggi a Bodrum, dove ha una casa. Sempre oggi è stato arrestato l'ex governatore di Istanbul, Hüseyin Avni Mutlu, già sospeso da ogni servizio insieme ad altre 246 autorità locali nei giorni scorsi. Il ministro degli interni ha già sospeso quasi 9.000 pubblici ufficiali, mentre il ministro degli esteri, Mevlut Çavuşoğlu, ha dato il via oggi ai provvedimenti già annunciati nei giorni scorsi, rimuovendo decine di diplomatici, compresi due ambasciatori, tutti naturalmente sospettati di avere legami con Gülen, tra loro anche Gürkan Balık, a lungo consulente di Ahmet Davutoğlu quando era ministro degli esteri, e l'ambasciatore, l'ex ambasciatore in Canada, Tuncay Babal. Ed è sempre notizia di questa mattina che il 9 agosto Erdogan sarà in Russia, a San Pietroburgo, per incontrare per la prima volta Putin dopo l'abbattimento del jet russo dello scorso novembre. E da Istanbul è tutto, ti restituisco la linea. E grazie Marco Barbonaglia per questo aggiornamento, e un aggiornamento lo vediamo noi da Rouen, o meglio da Saint-Étienne-de-Rouvray, dove è avvenuto l'attacco. Il presidente francese François Hollande e il ministro dell'interno Bernard Cazeneuve sono arrivati sul luogo, il capo dello Stato ha reso omaggio alle teste di cuoio che hanno abbattuto i due assalitori, alle forze dell'ordine e ai soccorsi. Ovviamente continueremo ad aggiornarvi su tutto questo. Passiamo all'economia con il caso di oggi e quello che riguarda Mediaset. Dietro fronti Vivendi sull'intesa con Mediaset per rilevare Premium. I francesi non intendono rispettare l'accordo dell'aprile scorso per rilevare il 100% di Premium, ma puntano solo a una quota del 20% alla luce di differenze significative nell'analisi dei risultati, come spiegato in una nota. Per i francesi ci sarebbe estrema difficoltà a portare nel medio termine a break-even la TV a pagamento. Per Mediaset, nonostante i conti rosso nel 2015 e le previsioni per 2016 invece, il break-even è programmato per il 2017. Il gruppo che fa capo a Bolloré vuole comunque trovare un accordo con Mediaset, confermando lo scambio incrociato del 3,5% del capitale e annunciando l'intenzione di arrivare a detenere in 3 anni circa il 15% di Mediaset, senza puntare al controllo, attraverso un prestito obbligazionario convertibile, quando l'intesa iniziale prevedeva che i francesi potessero salire solo fino al 5%. Mediaset, che questa mattina in borsa perde l'11%, è meno conciliante e preannuncia battaglia per quella definita una palese contraddizione per gli impegni assunti. Ancora più duro l'azionista Fininvest, che accusa Vivendi di volere una posizione di rilievo in modo surrettizio. Flavia Carletti da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo un viaggio durato più di quanto non si credesse, Solar Impulse ce l'ha fatta. Può un aereo solare senza neanche una goccia di carburante fare il giro del mondo? Ebbene sì, a dimostrarlo è stato il Solar Impulse, il velivolo svizzero che ha percorso 42.000 km in un anno e 4 mesi, partendo da Abu Dhabi lo scorso 9 marzo e atterrando alle 4 di stamattina, sempre nella capitale degli Emirati Arabi. Le ore effettive di volo sono state 500 e le tappe 17. A pilotare il velivolo sono stati gli svizzeri Bertrand Piccard e André Borch. Il progetto è nato per promuovere l'uso delle energie rinnovabili. L'aereo infatti ha volato grazie a delle batterie che immagazzinano energia solare, ma il vero obiettivo della tecnologia in questo settore, come spiega Cesare Tardani, professore di sistemi aerospaziali del Politecnico di Milano, è un altro. Non è tanto l'energia solare il traguardo, ma l'obiettivo, ma è l'aeroplano elettrico che potrà sfruttare ad esempio l'energia solare per caricare le batterie, si andrà verso delle soluzioni ibride. Daniela Abrunzo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Due notizie tra la cronaca e lo sport. I giorni di ansia per Bernie Eccleston e i familiari per il sequestro venerdì scorso a San Paolo della suocera del patron del circus della Formula 1. Si è appreso oggi infatti il rapimento di Aparecida Shunk Flosi Palmeira, 67 anni, che è la madre di Fabiana Flosi, che è la terza moglie di Eccleston, sposata nel 2012. A quanto pare i rapitori hanno chiesto un riscatto di 33 milioni di euro. L'altra notizia tra la cronaca e lo sport, ma un po' più sportiva, riguarda sempre Rio de Janeiro, ma riguarda il doping e gli atleti russi. C'è anche il campione olimpico di Londra 2012 Alexander Diachenko tra i 5 fermati dalla Federazione Internazionale di Canoa che non potranno partecipare ai giochi di Rio. Era stato medaglia d'oro nel K2 200 metri 4 anni fa. E per lo sport, beh, c'è anche il calciomercato. Carlo Genta, ciao. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Sì, sono giorni molto intensi su vari fronti del calciomercato, dando ormai per scontato il passaggio di Higuain dal Napoli alla Juventus. Adesso si attende la risoluzione di altri casi. Uno molto probabile sarà il, di cui si parla da giorni, il trasferimento iper multimilionario di Pogba al Manchester United. La Juventus non scende a patti, chiede 120 milioni di euro, l'offerta al momento è 110 più bonus. Ho l'impressione che questa maxi trattativa sarebbe il costo più elevato pagato per un giocatore nella storia del calcio. Ho l'impressione che finirà con Pogba in Inghilterra. Ma il caso del momento è quello dell'Inter. Inter che è assediata dal Napoli per Icardi, ha respinto tutte le offerte di De Laurentiis, nonostante ieri ci sia stato un nuovo incontro tra De Laurentiis stesso, gli emissari del Napoli e l'agente del giocatore, cioè sua moglie Vandanara. Però l'Inter ritiene Icardi incedibile. A questo punto oggi ci sarà un confronto tra Mancini e rappresentanti della proprietà. Mancini sempre più nervoso, sempre più vicino a quanto si dice ad una rottura con il club. Dunque questo è il caso del momento, che verrà risolto credo nelle prossime ore. Allora ti aspettiamo dunque Carlo alle 14 con tutti i convocati, tutto materiale per voi, anche questo evidentemente. Adesso ci prendiamo una pausa, c'è il traffico come sempre, nella seconda parte della trasmissione inizieremo il nostro giro per l'Italia, ma tenendo sempre un occhio puntato su Roanne, dove c'è stato un attacco ad una chiesa questa mattina e come vi abbiamo raccontato è stato sgozzato un prete, un uomo di 84 anni, e c'è una persona tra la vita e la morte. Il giro per l'Italia lo inizieremo a Savona, andando andando a parlare della situazione degli immigrati. La tensione è piuttosto forte dal lato dell'accoglienza, un altro dei nostri punti sulla mappa che mettiamo esattamente su questo tema tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'attacco ad una chiesa di Rouen in Normandia, è stato sgozzato il prete, forse c'è un'altra vittima, o meglio c'è una persona tra la vita e la morte, ci sono altri due feriti. I due assalitori sono stati uccisi, avrebbero gridato Daesh, secondo alcune fonti della stampa francese. Sul posto sono arrivati il presidente francese François Hollande e Bernard Cazeneuve. Attendiamo ovviamente le loro dichiarazioni e anche dei chiarimenti dalla polizia su tutto questo. Abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione anche di Mediaset, di Bolore che fa dietro fronte e che dice di volere solo il 20% di premium. Abbiamo parlato degli Stati Uniti e della convention democratica. Abbiamo parlato della violenza sessuale di gruppo su una minorenne in Campania. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia, come sempre abbiamo fatto già la settimana scorsa e lo facciamo anche questa settimana insieme a tutta la nostra radio che si sta occupando e sta dedicando queste due settimane alla violenza, al tema della violenza contro le donne, con un appuntamento nel GR delle 7. Noi lo facciamo, e sul nostro sito www.radio24.it, noi lo facciamo dal nostro peculiare punto di vista, il punto di vista di una trasmissione che spesso cerca di andare sul territorio, di raccontare storie dal territorio, per raccontarvi in questo caso di storie di quotidiana violenza, di quella parte sott'acqua, l'iceberg che noi vediamo, la punta dell'iceberg che noi vediamo è quando le donne vengono uccise, ma poi ci sono storie di violenza quotidiana e che non arrivano sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, ma restano confinate nelle pagine dei quotidiani locali. Dunque, Radio 24 dalla parte delle donne, nella declinazione di Effetto Giorno, è proprio questo. Radio 24 dalla parte delle donne. Due storie oggi. A Bari avevano 25 anni e si erano lasciati, ma lui, un operaio incensurato, non si era rassegnato alla fine della storia. Ha programmato la vendetta, l'ha messa a punto nei minimi dettagli, nel giorno del compleanno della donna l'ha tirata in uno stanzino con la scusa di consegnarle un regalo e dopo aver bloccato l'unica via di fuga l'ha stuprata, dopodiché lei ovviamente l'ha denunciato e lui è stato arrestato. A Pegli, in provincia di Genova, in questo caso è la storia di un'uccisione di una donna. Un pensionato di 77 anni ha strangolato la moglie di 76 anni dopo un litigio avvenuto nella loro abitazione. La lite sarebbe andata avanti per ore, a quanto viene riferito. Dopo il delitto ha chiamato i carabinieri di Arenzano, ai quali ha raccontato l'accaduto. Era rimasto sconvolto il pensionato per la morte dell'unico figlio, aveva iniziato a covare una gelosia morbosa nei confronti della moglie. Venite, ho fatto una cavolata, ha detto ai carabinieri quando li ha chiamati. Radio 24, dalla parte delle donne. E poi trovate molto altro sul sito www.radio24.it. Un altro tema che stiamo toccando spesso in questo periodo è il tema dell'accoglienza dei migranti, dei profughi e dei richiedenti asilo, soprattutto per parlare di quanto, lo abbiamo detto insomma, spesso nei giorni scorsi, siamo andati in una serie di località che stanno vivendo delle crisi o quantomeno delle problematicità per come viene gestita l'accoglienza, per come vengono distribuiti migranti e profughi sul territorio. Oggi il punto sulla mappa su questo tema lo mettiamo a Savona, dove ci sono state tensioni nei giorni scorsi, ne abbiamo parlato anche a 24 mattino con Oscar Giannino e Alessandro Milan, tensioni proprio sul tema dell'accoglienza dei profughi. Ilaria Caprioglio è il sindaco di Savona, buongiorno sindaco, benvenuta. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. O preferisce sindaca, io lo chiedo sempre perché poi non si sa mai, cosa preferisce? Preferisco Ilaria Caprioglio, Ilaria per tutti. Ilaria Caprioglio, vabbè, insomma, io non la chiamerò Ilaria. Comunque, vabbè, ci dica qual è la situazione al momento. La situazione me è molto difficile. Molto difficile perché? Perché se Savona fosse una città in grado di essere accogliente anche per i suoi cittadini, potrebbe poi allora permettersi il lusso, diciamo così, perché è proprio un lusso, di essere accogliente anche con i migranti. Noi invece stiamo vivendo un periodo ormai protratto nel tempo di grande crisi a livello industriale. È stata chiesta l'area di crisi proprio perché moltissime industrie nel territorio savonese stanno chiudendo. Se le industrie chiudono non c'è lavoro, e entra in crisi la famiglia, entra in crisi l'uomo, la donna, che non riescono a mandare avanti la famiglia. In questo contesto abbiamo quindi servizi sociali che sono veramente una polveriera, i cittadini savonesi che chiedono alloggio, e su questo si innesca la problematica. Quale? La problematica dell'accoglienza diffusa, questa emergenza che però dura da decenni, quindi io non credo che si possa chiamare più emergenza, è un qualcosa quanti ne accogliete? Quanti ce ne sono sul vostro territorio? Noi ne abbiamo con accoglienza diffusa nella città di Savona ne abbiamo 184, ma ne continuano ad arrivare, perché ogni giorno io ho sms che mi arrivano dai coordinatori del monitoraggio sindromico profughi, quindi Croce Rossa Italiana, coloro che insomma come i medici che li visitano per poi smistarli, che arrivano pullman di 10-20 profughi ogni giorno. Poi ovviamente alcuni restano, alcuni vengono smistati nella provincia, ma accanto a questa situazione già critica abbiamo adesso da un paio di mesi la richiesta da parte del Ministero tramite la Prefettura dell'apertura di un hub, cioè un centro di prima accoglienza per migranti e richiedenti asilo. Un hub è una struttura dove vengono accolti questi migranti, dovrebbero stare solo dalle 24 alle 48 ore, e si parla di 50-70 migranti. Ora questo ha innescato quelle polemiche. Però non mi sembrano numeri pazzeschi, sindaco, Ecco, guardi, non sono numeri pazzeschi, ma io le assicuro che su una popolazione di 60.000 abitanti che sono abbastanza esasperati perché non riescono veramente ad avere risposte loro di accoglienza e di attenzione da parte dell'amministrazione, per noi è difficile. Questa hub sarebbe stata inserita per un accordo tra prefetto e curia all'interno di un quartiere molto popoloso della nostra città, accanto comunque a una struttura che accoglie bambini, e le lascio comprendere come gli animi delle persone si accendano subito. Quindi è veramente da parte del sindaco, da parte dell'amministrazione, c'è veramente un equilibrio da portare avanti veramente virtuoso tra contemperare le esigenze del cittadino ma anche quelle di accoglienza, e non è facile. Sindaco, c'è qualcuno che dice che c'è qualcuno della sua maggioranza che è un po' scaldato, teso a scaldare gli animi dei cittadini. No, lei cosa dice su questo? Non è assolutamente vero, anzi l'assessore di cui si fa riferimento ha avuto il coraggio invece di andare a parlare con queste persone del quartiere che si sentivano comunque abbandonate, a spiegar loro come sono state le dinamiche e nello stesso tempo a spiegar loro che l'amministrazione comunale sta cercando delle soluzioni valide, alternative, come stiamo facendo, come abbiamo fatto e come comunque a breve indicheremo. Cioè, mi sembra di capire, sindaco, scusi, giusto per essere chiari, lei non mette in dubbio l'accoglienza, ma come altri sindaci di altre città chiede un qualcosa di un po' più distribuito sul territorio, mi sembra di aver capito, no? Ma non solo anche più distribuite sul territorio, ma gestito in modo organico, con un progetto, no? E soprattutto un sindaco, un'amministrazione deve essere messo al corrente, non possiamo essere tenuti all'oscuro di tutto. E noi ci ritroviamo questi profughi che arrivano senza sapere neanche che stanno transitando sul nostro territorio. Sì. Cioè il prefetto ordina e i profughi passano, diciamo così. Esattamente, e nel massimo rispetto per la figura istituzionale del prefetto, però vorremmo comunque essere anche parte in causa noi, e invece purtroppo non lo riusciamo ad essere, tranne poi quando ci rendiamo conto che c'è una situazione che non può andare bene per la cittadinanza, come questa soluzione trovata da prefetto e curia della hub, e quindi cerchiamo di trovare soluzioni alternative noi. Allora, io la ringrazio. Grazie a Ilaria Caprioglio, sindaco di Savona, che ci ha consentito di sollevare un altro problema su un altro punto della mappa. Come vi dicevo, ne parleremo poi col Ministero dell'Interno. A chiusura di questo ciclo di trasmissioni, effetto giorno finisce, venerdì poi ritorna naturalmente a settembre, ma per venerdì, insomma, stiamo cercando qualcuno del Ministero dell'Interno. Prima di occuparci di un'altra questione e di mettere un altro punto sulla mappa, per la precisione nel municipio 14 di Roma, gli aggiornamenti da Rouen, dove lo ricordo. Ricordiamo per gli ascoltatori che si fossero messi in ascolto solamente adesso, c'è stato un attacco ad una chiesa in Normandia, appunto. C'è una vittima, è il prete che ha 84 anni, è stato sgozzato, i due assalitori sarebbero stati sentiti urlare Daesh, c'è un'altra persona che in questo momento è tra la vita e la morte e altri due feriti, i due assalitori sono stati uccisi dalle forze speciali. Notizia di pochi istanti fa, diffusa da una TV francese ma senza conferma al momento dalle autorità francesi, uno dei due assalitori era schedato con la lettera S, quella che indica gli individui potenzialmente radicalizzati e a rischio di passare all'azione. Proseguiamo il nostro giro per l'Italia, punto sulla mappa, Roma, municipio 14, tema rifiuti. Federico Genta è il presidente del municipio 14, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, ma credo che ci sia un po' di confusione, io sono giornalista della Stampa di Torino. Ciao Federico, buongiorno. Allora facciamo una cosa, adesso ci dobbiamo fermare, abbiamo fatto un po' di confusione, anzi l'ho fatta io ad essere sincero, non è stato nessuno dall'altra parte del vetro, giusto per essere chiari, e ti chiedo scusa per l'attesa, però siamo un po' in ritardo, quindi mi devo fermare, devo sentire la borsa e poi parliamo con te. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: l'attacco ad una chiesa a Rouen in Normandia, è stato sgozzato il prete, una persona tra la vita e la morte, uccisi i due assalitori, uno dei due, secondo quanto riferisce una TV francese, sarebbe stato indicato dalla polizia come potenzialmente a rischio radicalizzazione, pronto a passare all'azione. Mediaset bollore fa dietro front, vogliamo solo il 20% di premio. Il titolo crolla in borsa giù del 10%, male oggi i mercati, complessivamente Milano perde lo 0,7%. Gli Stati Uniti, la convention democratica, il partito prova a ricompattarsi contro Trump, Bernie Sanders dice faremo il possibile per fare eleggere Hillary alla Casa Bianca. Lo shock in Campania dopo la violenza sessuale di gruppo su una minorenne, il terzo caso in poche settimane. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. E veniamo ad una storia adesso, il prossimo punto sulla mappa lo mettiamo a Torino, come avrete intuito pochi istanti fa, e lo facciamo con Federico Genta, che è giornalista della Stampa, che abbiamo mal salutato prima. La vicenda è una storia di abbandono, una storia di una donna che è stata trovata morta in casa, ma ci sono voluti due mesi, in una casa letteralmente sepolta dai rifiuti. Appunto, una storia di abbandono che avviene in un condominio e anche in un bel condominio, e ci ha colpito esattamente per questo, perché per quanto le cose, come dire, siano state lasciate andare per così tanto tempo. Federico, allora che cosa è successo? Riesci a darci un quadro? Allora, il ritrovamento risale proprio a poche ore fa, questa mattina la polizia è ritornata insieme ai vigili del fuoco nella palazzina dove abita la signora per fare un secondo sopralluogo. Un secondo sopralluogo perché in realtà la polizia era già stata dentro la casa della signora lo scorso 13 luglio, sollecitata da una conoscente della signora che è stata trovata morta e dell'amministratrice di condominio. Questa signora è una signora di 68 anni, decisamente abbiente, proprietaria di diverse case, non solo a Torino, che però viveva da tempo in questa condizione, quella che oggi potrebbe essere definita un'accumulatrice seriale. Addirittura nel suo alloggio era impossibile camminare se non sfiorando con la schiena al soffitto. Per cui è probabile che lei sia morta travolta dalle stesse cose, dagli stessi rifiuti che accumulava. In realtà la signora è scomparsa da maggio e praticamente non se n'è accorto nessuno. Sì, ha partecipato all'ultima riunione di condominio l'11 maggio e poi è sparita. Nessuno l'ha ha presentato una denuncia ai carabinieri, alla polizia, fino appunto alla prima settimana di luglio, quando poi c'è stato questo controllo, che però non aveva portato di fatto nessun risultato. L'AS non aveva fatto procedere allo sgombero di questa immondizia e tutto rimaneva così. Oggi, con l'uscita dell'articolo di questa storia, la polizia è ritornata in questa palestina. Perché siete stati voi a sollevare la vicenda, voi della stampa. Sì, è uscito, no? Oggi sulla stampa, sì. Quindi di fatto 2 mesi di abbandono, nei quali poco si è fatto, e poi un'altra settimana ulteriore dopo un primo ingresso nell'appartamento. Come mai? Mi sembra di aver capito che ci sia una questione semiburocratica dietro. Sì, sicuramente c'è stato qualche intoppo burocratico, perché sono di fatto passati una decina di giorni senza che sia stato possibile chiarire che se questa signora ci fosse o meno nell'alloggio. Peraltro parliamo di un alloggio al sesto piano, l'ultimo piano di questo palazzo, con una porta che a fatica i vigili del fuoco, già la prima volta, erano riusciti ad aprire proprio per i rifiuti ammassati contro. Quindi era improbabile, porta chiusa con la chiave dall'interno, era improbabile che la signora si fosse calata dal balcone. Anche i vicini dicevano questo ieri, erano tutti più o meno convinti che fosse lì dentro. Però c'è stato questo intoppo, per cui di fatto poi nessuno era andato a togliere tutte queste immondizie per vedere effettivamente se la signora c'era o no. Io ti ringrazio, grazie a Federico Genta della Stampa per questo racconto e per questa storia di abbandono avvenuta a Torino che abbiamo voluto raccontare. Noi adesso ci spostiamo a Roma ed è là che mettiamo il prossimo punto sulla mappa, questa volta davvero con il presidente del Municipio 14, Alfredo Campagna. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. Allora, eccoci qua, Municipio 14, ce lo chiede qualcuno, dov'è? È zona nord-ovest di Roma, dove si sono visti anche i cinghiali grufolare tra l'immondizia, ci sono girate le foto su internet nei giorni scorsi. Mi sembra che siate quelli che nelle ultime ore hanno vissuto la situazione più difficile complessivamente. Come vanno le cose adesso? Ma diciamo che le cose sicuramente vanno meglio. Prima di tutto stiamo intervenendo a livello centrale per risolvere i problemi. C'è stato un incontro diretto tra l'assessore Muraro e i vertici di AMA per risolvere tutti quanti i problemi e far rispettare il contratto di servizio, insomma. Quindi per quanto riguarda stanno ripulendo. Sì. Il lavoro finalmente che stanno facendo, devo dire che è buono, lo stiamo vedendo, anche se c'è ancora tanto tanto da fare. Per quanti giorni si è accumulata sta spazzatura, Campagna? Ma non è una questione di giorni, è una questione di mesi, è diverso. No, guarda, noi a livello municipale, diciamo a livello locale, siamo in stretto contatto con i responsabili dell'area, perché comunque riusciamo a gestire determinate cose anche a livello locale. E devo dire che stanno facendo un ottimo lavoro e abbiamo organizzato delle pulizie eccezionali, come per esempio anche questa domenica c'è stata una pulizia eccezionale dove è stata pulita tutta via di Torre Vecchia, dove abbiamo chiesto anche la collaborazione senza vie formali di spostamento di auto, e chiedendo la collaborazione appunto dei cittadini, farci trovare le strade, essendo domenica magari la cosa era più semplice, di farci trovare libere dalle auto, e devo dire che c'è stata molta collaborazione anche da parte dei cittadini e siamo riusciti a pulire anche i marciapiedi e tutto quello che ne consegue. Benissimo. E per quanto riguarda invece, stiamo intervenendo adesso per tutto quello che è il materiale ingombrante, che quello è uno dei grossi problemi che abbiamo, e stiamo monitorando a livello cittadino e tutti i punti critici e stiamo intervenendo uno per uno su questi punti. Vedremo come il lavoro da fare è tanto. È tanto comunque, lo immagino. Allora, grazie intanto ad Alfredo Campagna, presidente del Municipio 14, per questo suo racconto della parte di città che gli è di competenza. Noi adesso, prima di chiudere, di andare a sentire il traffico, è Mario Platero che ci parlerà ampiamente della Convention Democratica. Beh, questa settimana che ci porta alla chiusura della trasmissione per l'estate, a tutti voi che magari già state pensando alle vacanze, non tutti, alcuni, insomma, la maggior parte sta pensando alle vacanze, anche qualche storia balneare per così dire non guasta. E andiamo ad Alassio in Liguria, Enzo Canepa, che è il sindaco. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti voi, grazie. Allora, vi siete ritrovati l'altro giorno al Grand Hotel di Alassio, una cosa con 30 domestici, 45 bauli, una scorta e 10 macchine, la principessa saudita in arrivo ad Alassio. Vi ha sconvolto la città? È stata una cosa inaspettata, anche se ne parlava da poco tempo. Siamo stati, diciamo così, stupiti favorevolmente, perché è la prima volta che un tale personaggio arriva nella nostra città per un periodo così lungo. Ma abbiamo avuto due settimane, del Qatar. Si ferma due settimane, tra principesse si parlano, la principessa del Qatar avrà chiamato la principessa saudita e le avrà detto: oh, guarda, Galassio non è niente male tutto sommato. Ma ci auguriamo che tutti i nostri ospiti abbiano dei ricordi positivi, per poter anche, perché questa è la miglior pubblicità, poi quella che si fa del passaparola e di quello del promuovere il territorio. Indipendentemente dal fatto che l'albergo 5 Stelle è stato il richiamo effettivo che ha attirato l'attenzione per la prima volta della principessa, sì. Dopodiché probabilmente la promozione che è stata fatta sulla Costa Azzurra, dove loro erano abituali frequentatori, la promozione che è stata fatta dal comune con gli eventi, cito per ultimo quello di Pininfarina a livello internazionale, l'ottimo rapporto con l'ambasciatore Pupi D'Angeli, che è stato il deus ex machina di molte nostre situazioni. Lei ha scritto la famiglia Saudi. Lei ha scritto: qua però non ci capiscono. Cioè, ha detto al secolo XIX: qua però non ci capiscono. No, non è una mia dichiarazione. Qua non ci capiscono. No, qua non ci capiscono. Voleva forse essere inteso, ma come un punto, nel senso che molto spesso noi proponiamo eventi e otteniamo ottimi risultati, però sul territorio non viene recepito molto bene quello che viene svolto, ma viene poi recepito altrove, perché l'evento di Pininfarina non è diciamo così quantificabile in Alassio, all'interno della nostra città, l'eco che ha avuto. Ma a livello internazionale, come marketing territoriale internazionale, esatto. chiaramente l'anno scorso, chiaramente ha un grosso peso. Abbiamo già qualche ascoltatore che scrive: oh, ma ancora che si stendono tappeti rossi ai sauditi? Si stendono tappeti rossi a tutti i turisti in maniera uniforme. Poi chiaramente quando arriva un personaggio che ha una capacità di spesa siffatta e che richiede oltretutto determinate caratteristiche, determinata riservatezza, determinate accortezze, è chiaro che bisogna cercare di soddisfarle, perché poi non bisogna mandare via nessuno, anzi bisogna accogliere tutti dal punto di vista turistico, e questo è un biglietto da visita che per noi apre orizzonti. Non è niente male. La ringrazio, grazie Enzo Canepa, sindaco di Alassio. Le auguro una buona giornata. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.